TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro. Torneremo in questa edizione nei luoghi colpiti dal maltempo dei giorni scorsi, a una settimana dalla frana che a Brazzano ha ucciso due persone e dagli allagamenti che hanno sommerso Versa. Sono in arrivo altre piogge che potrebbero essere intense fra domani e martedì. Intanto a Giassico c'è stato un ricordo delle vittime. Trieste verso la conclusione il premio Lucchetta, mentre a San Vito il Tagliamento e al traguardo il piccolo festival dell'animazione, nel pomeriggio le premiazioni. Nello sport il turno di svolta per le regionali del basket, i commenti sulla sconfitta dell'Udinese e i risultati della mezza maratona di Palmanova che si è disputata questa mattina. Le 12 e 16 minuti, è una giornata di sole sulla regione, ma sulle zone colpite duramente dal maltempo dei giorni scorsi la tregua sta per finire. Sono in arrivo infatti due giorni di piogge che potrebbero essere anche intense. Si guarda con preoccupazione alle previsioni. Intanto questa mattina nella chiesa di Giassico c'è stata una messa a suffragio delle due vittime di Brazzano. Parole di conforto per tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo, anche dall'arcivescovo di Gorizia. Abbiamo visto tanta solidarietà, tanta gente darsi da fare e tanto amore. Su questo possiamo ricostruire e andare avanti. Si rivolge alla comunità con queste parole di speranza il parroco di Cormons, Monsignor Stefano Goina, nella messa in suffragio di Guerina Scozzai e Kverin Kunert, uccisi dalla frana di Brazzano nella notte tra domenica e lunedì. Per il funerale bisognerà aspettare il rilascio delle salme e dopo l'autopsia ancora non ci sono novità da parte della procura di Gorizia. È gremita la chiesetta di Santo Stefano di Giassico, altra frazione duramente colpita dall'esondazione dello Iudrio. Non riesce a contenere amici, parenti, semplici cittadini. Al posto di Guerina c'è un fiore. Non canteremo cose tristi, a lei piacevano canti gioiosi, è stato detto. In chiesa la foto del 32enne tedesco che balla con l'amica e vicina, l'83enne di Brazzano. Le offerte raccolte qui, come quelle di tutte le parrocchie dell'arcidiocesi, andranno alle popolazioni colpite dalle frane e dalle alluvioni, incluse quelle di Versa. Le prime parole dell'arcivescovo Redaelli, che ieri si è recato in visita ai luoghi colpiti e oggi ha celebrato messa a Gorizia per la 75esima giornata provinciale di ringraziamento, sono dedicate in primis a Kverin, che si è sacrificato per gli altri, e a Guerina. Ma anche penso a tutte le persone che si trovano in questo momento in difficoltà, ha aggiunto l'arcivescovo, alle aziende agricole, alle persone che stanno accogliendo. Ho visto che c'è tantissima solidarietà, perché questo è un segno di grande attenzione e alla fine è vero, è un periodo difficile, ma per fortuna ci sono persone che si attivano. Giassico di Cormons, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso al momento sul Friuli Venezia Giulia, temperature in lieve risalita rispetto a questa mattina. Vediamo quelle delle 11, a Trieste 7 gradi, a Gorizia Pordenone 6, a Udine 5 gradi e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo 1 grado, a Tarvisio meno 3, a Sappada meno 9, a Forni di Sopra 5 decimi di grado sotto lo zero, sul Piancavallo 1,5 sotto zero e in quota sullo Zoncolan e sull'Ussari meno 5, sulla costa a Lignano 5 gradi, a grado 6 gradi e 5 decimi. Le previsioni a cura dell'ARPA: oggi avremo per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, dal tardo pomeriggio sera aumento della nuvolosità da ovest, domani cielo coperto, piogge da moderate ad abbondanti su costa e pianura occidentali, da abbondanti a intense su pianura e costa orientali, anche temporalesche con possibili accumuli localmente consistenti. Sui monti precipitazioni da moderate ad abbondanti, anche intense sulle prealpi giù. Quota neve inizialmente sui 200-400 metri, in rialzo poi fino a 800-1200 metri circa. Temi internazionali e non solo nella giornata che a Trieste chiude gli incontri del premio Lucchetta. Ascoltiamo il servizio. Minori e carcere nell'ultima giornata del premio Lucchetta al Teatro Miela a Trieste. Dopo la rassegna stampa commentata del mattino, insieme alla giornalista Marco da Milano, a salire sul palco è stata Raffaella Calandra del Sole 24 Ore, vincitrice del premio per la categoria stampa italiana, con un servizio sul boom di under 18 nelle carceri e l'affollamento anche degli istituti per minori. Insieme a lei Gaia Mombelli di Sky TG24, finalista con il reportage La cattiva strada, nel quale ha indagato il fenomeno crescente del disagio giovanile che si traduce in episodi di violenza efferati compiuti da giovani figli della buona borghesia, e Valeria Verdolini dell'associazione Antigone, che ha sottolineato gli effetti del cosiddetto decreto Caivano sulla detenzione minorile. A seguire l'ultimo appuntamento di questa edizione del premio, il racconto di un paese dimenticato dall'Occidente, il Myanmar schiacciato tra dittatura militare e guerra civile, con Daniele Bellocchio di Inside Over e Sky TG24, vincitore della categoria Reportage e TV News. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli in omaggio a Billie Holiday e l'ultima giornata del piccolo festival dell'animazione sono gli appuntamenti di spicco. La storia e le canzoni di una delle grandi voci del Novecento saranno raccontate da Pasquale Mega a Sacile, a Palazzo Ragazzoni, alle 16. Al PFA, San Vito al Tagliamento, nel pomeriggio, dalle 16, all'Auditorium Zotti, le animazioni di Michaela Müller con le sue pitture su vetro, e alle 17 l'annuncio dei vincitori del piccolo festival e le premiazioni. Di seguito si terrà il concerto disegnato dei tre allegri ragazzi morti. Alle 21 si potranno vedere tutti i film vincitori. Altri spettacoli di oggi: approda a Filetto Umberto al Teatro Maurensige l'inferiorità mentale della donna con Veronica Pivetti e Christian Ruiz, 20:30. Ultimo appuntamento per Vicino Lontano Monta Paluzza al Cinema Teatro Daniel alle 18, torna in scena Cantata per il Sid con Danilo De Marco, Angelo Floramo, Massimo Somaglino e la fisarmonica di Paolo Forte. La grande musica barocca, Bach e Reger nell'appuntamento che chiude a Trieste le sacre meditazioni organistiche internazionali nella chiesa luterana, protagonista del concerto l'organista spagnolo Felipe López alle 17. A Udine, galà conclusivo del Premio Nazionale delle Arti, sezione vocale, al Teatro Nuovo alle 18, il concerto finale dei vincitori. Ingresso libero, i biglietti omaggio si ritirano dalle 16:30. Infine festeggia i 30 anni l'associazione musicale Ritmea di Udine, concerto evento al Palamostre alle 18, ingresso libero su prenotazione. E ora la pagina dello sport, il basket, giornata di possibile svolta per le squadre regionali. In Serie A la Pallacanestro Trieste alle 16 ospita Milano in una delle gare di cartello di questo nono turno. L'Olimpia 10 punti, 2 più dei biancorossi che cercano dunque l'aggancio e soprattutto la conferma di poter aspirare a qualcosa di più rispetto a una zona di limbo in classifica. La squadra di Gonzales arriva dal successo in Champions a Istanbul, inatteso e corroborante. Al Palatrieste si va verso il tutto esaurito. Anche Udine cerca riscatto dopo aver raccolto tanti complimenti e solo 2 punti. Trasferta dura sul campo di Varese, inizio alle 16:30, scontro diretto nelle zone basse della classifica dalle quali l'APU vuole risollevarsi. Ieri nell'anticipo la sconfitta di Treviso a Trento, vincendo i bianconeri di Vertemati lascerebbero i trevigiani ultimi da soli. Anche in A2 partita della maturità per Cividale che sfida in trasferta la capolista Pesaro. Nel calcio torniamo sulla sconfitta casalinga dell'Udinese nell'anticipo con il Bologna. Partita compromessa al Friuli dai bianconeri in un secondo tempo costellato di errori difensivi che hanno permesso all'avversaria opportunista di segnare 3 gol. Divario troppo ampio che tuttavia rispecchia i valori della classifica e soprattutto la fragilità della retroguardia friulana. Sentiamo l'analisi del tecnico Costa Rugnaic nel dopogara. Oggi abbiamo fatto dei regali di Natale in anticipo al Bologna. Dopo le ultime vittorie qui in casa nostra volevamo confermarci, fare una bella partita e vincere anche contro il Bologna. Nella prima frazione di gioco abbiamo visto una bella partita, anche se non ero soddisfatto al 100%. Adesso nella seconda frazione di gioco abbiamo perso il pallone con Solé, poi comunque il Bologna ha fatto bene solo questo contropiede e siamo andati sotto al 52esimo, ma questo non vuol dire che bisogna fare regali avversari quando si va sotto 1-0 al 52esimo. Purtroppo però è quello che è successo. Oltre 2.400 partenti questa mattina alla mezza maratona di Palmanova, appuntamento attesissimo del podismo autunnale. Buona anche la partecipazione alla non competitiva e importanti le iniziative legate alla corsa. 2.419 atleti di corsa in una giornata che unisce sport e solidarietà, che fa riflettere sull'importanza della lotta contro la violenza sulle donne, e oggi ha anche celebrato un minuto di silenzio per le vittime di Cormons. Palmanova si conferma città della mezza maratona con partenza e arrivo in Piazza Grande. Dopo 21 km e 97 metri, il percorso che da 23 anni nella stagione autunnale è l'occasione ideale anche per prestazioni cronometriche di rilievo. Africani naturalmente protagonisti con la vittoria che è andata a New York Mukiza, burundese, che ha corso in 1:03:03. La sorpresa, il terzo posto di Mikhail Sirbu, moldavo, che da un anno ha ottenuto la cittadinanza italiana e sul traguardo di Piazza Grande ha festeggiato il suo tempo, ma anche quello che oggi questa corsa vuole ricordare. Prima tra le donne la keniana Gitonga in 1:07:31. Seconda l'italiana Diletta Moressa. A ritrovarsi per la non competitiva di 5 km 600 persone che ognuna a modo suo ha corso o camminato contro la violenza sulle donne. Palmanova, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere ricordiamo l'appuntamento con il massimo campionato maschile di pallanuoto alle 15 alla Piscina Bianchi, la Pallanuoto Trieste ospita l'Ortigia Siracusa. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. 12:26, prossima edizione oggi che è domenica alle 18:30. Grazie per la vostra attenzione ancora, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.